Felice, prima ha parlato di bufale in sostanza, e permettetemi di continuare passando magari dalla bufala d'autore alla categoria della bufala di editore, che permette di estendere il concetto. Vedete, io non ho letto, vi confesserò, il cosiddetto romanzo postumo di Pierpaolo Pasolini, quel petrolio che, a dire di tutti, l'autore aveva disposto che non si pubblicasse affatto, e aveva fatto bene, perché schifezza più grande non era mai uscita dalla sua penna, a meno che si sostenga l'ipotesi di un eminente commentatore che ha scritto che è un capolavoro perché per descrivere una realtà schifosa non si può che scrivere un libro schifoso, che è una tesi sulla quale avrei qualche riserva da fare. Però non ho potuto evitare di seguire almeno da lontana le inevitabili polemiche che hanno accompagnato l'episodio. Il grave problema se sia o meno lecito, e in nome di che cosa, pubblicare gli inediti degli autori scomparsi, con particolare riguardo a quelli che i medesimi autori avevano caldamente raccomandato di non pubblicare. Non è che sia una polemica nuovissima, negli ultimi anni l'ho sentita almeno una dozzina di volte, le ultime che ricordo a proposito di Calvino e di Pavese. Perché in genere si può star sicuri che se l'autore è appena appena di successo, eredi, editori e curatori pubblicheranno tutto quello su cui riusciranno a mettere le mani. Una procedura ovviamente giustificata dai tempi in cui l'ottimo Vario e l'eccellente Tucca non obbedivano alla disposizione di Virgilio di dare il manoscritto della Eneide alle fiamme, che sarebbe stata una gran bella cosa, ve lo assicuro io che l'ho letta più volte di quanto desideri ricordare, e giustificata con la necessità di non privare i posteri di opere insigni, sia pure imperfette, che la naturale modestia, inesausta ricerca di perfezione dello scrittore aveva destinato ingiustamente all'oblio. La motivazione di solito è rafforzata da considerazioni accessorie del tipo: se proprio ci teneva poteva bruciarselo lui il manoscritto, e regge sempre, anche se un po' contraddittorio poter esprimere un atto d'omaggio alla memoria di qualcuno non rispettandone le esplicite volontà. Comunque, sono disposto ad ammettere che Vario e Tucca abbiano agito per quel motivo, anche se probabilmente il desiderio di Augusto che uscisse un poema che lui aveva ordinato in celebrazione della propria famiglia qualcosina avrà contato, ma da quando esistono i diritti d'autore i termini del discorso sono un po' cambiati. Viene di degli autori celebri portano quattrini, di fronte alla logica del quattrino non c'è contraddizione che tenga. I filologi, che poi sono quelli che per mestiere esiguono materialmente la trasgressione, fanno una quantità di distinzioni, ma insomma reggono fino a un certo punto. La celebre Maria Corti, per esempio, a proposito di Pasolini, spiegava su Repubblica del 28 ottobre, mi sembra, che si trattava di un'operazione editoriale scorretta, figuriamoci, non era il suo editore che la faceva, perché quel tipo di inediti, i cosiddetti rifiutati, vanno pubblicati solo in sede di opera omnia e in appendice. Che in definitiva vuol dire che, visto che la pubblicazione delle opere omnia per definizione è un'operazione culturale e non commerciale, la cosa si può fare solo ove manchi l'interesse monetario in nome della cultura. Ma è un criterio ovviamente estrinseco, e in genere gli autori, quando dispongono la distruzione del manoscritto, non pensano proprio a questo. Io, occhio e croce, direi che qualsiasi scrittore considera la propria opera interessante proprio dal punto di vista culturale, e da quello si preoccupa di essere giudicato post mortem. Dei soldi che incasseranno o non incasseranno i suoi eredi e il suo editore non è che gliene freghi poi molto. Ma il fatto è che il rispetto della volontà dei defunti è un tipico valore morale non sancito a livello legale. La legge si limita a garantirlo in relazione alla trasmissione dei beni materiali, e mica sempre, perché dispone una quantità di eccezioni, le cosiddette quote legittime, al diritto di far testamento. Ora, di fronte ai soldi è noto che non valgono i più rigorosi sbarramenti legali e la minaccia delle più efferate sanzioni, e volete che gli editori si lascino frenare da semplici considerazioni di valore morale? Delle inevitabili polemiche non si preoccupano, certo, perché sanno bene che la stessa polemica funge da campagna promozionale gratuita e giova moltissimo al successo finanziario dell'iniziativa. Eppure il fenomeno è più diffuso di quanto sembri. Guardate, proprio mentre preparavo questo interventuccio su Pasolini, mi è capitato sotto mano praticamente da solo un altro esempio. Un inedito di Schopenhauer. Non un inedito involontario, nel senso di un'opera che non ha trovato uno straccio d'editore disposto a pubblicarla, come a quell'autore capitava abbastanza spesso, ma un inedito inedito, rifiutato dall'autore, per motivi che l'eminente filosofo ha chiaramente espresso, motivato per iscritto, e che sono stati anche pubblicati in altri inediti, pubblicato l'inedito correttamente a suo tempo nell'opera Omnia, come prescrive la Maria Corti, sotto l'appropriato titolo di Dialettica, è saltato fuori chissà come, è stato reintitolato in modo sbarazzino da un serissimo editore italiano e come L'arte d'ottenere ragione esposta in 38 stratagemmi è diventato un piccolo bestseller. Ha avuto due edizioni in pochi mesi e ne stanno preparando una per un club di vendite per corrispondenza, figuratevi. Oh, vedete, come opera in sé non è spregevole. A noi anzi abbastanza cara, perché dimostra che il vecchio Schopenhauer era abbastanza bravo nell'arte della caccia videologico quotidiano, ma insomma, per essere un falso è falso più di Giuda, e se la logica è logica avrebbe dovuto suscitare altrettante polemiche che il petrolio di Pasolini. Di più, perché quel cambio di titolo, scusate, è un'operazione ancora più sporca di quella di una pubblicazione indebita. Ve lo immaginate voi? Se una riedizione della dialettica di Schopenhauer in quanto tale aveva una qualche possibilità di fare più edizioni in pochi mesi e di finire nel club del libro, Schopenhauer, con il caratterino che notoriamente si ritrovava, si sarebbe incazzato come una belva, ma ahimè è morto nel 1860. E anche Pasolini è morto, Come dice il vecchio proverbio, chi è morto nella cassa giace e chi è vivo in cassa e se ne compiace. Almeno in una società e in una cultura che ha la prospettiva di fare il denaro passa senza battere ciglio sul corpo dei vivi, figuriamoci cari estinti. Dai ancora mezzo minuto.